Il canale dei Navicelli è un canale artificiale che collega in qualche modo il fiume Arno con il canale scolmatore del fiume Arno che arriva al porto di Livorno. È un'infrastruttura medievale che recentemente è stata riattivata e viene riutilizzata e fa parte delle infrastrutture fluviali della regione toscana. Già negli anni scorsi la regione toscana aveva fatto degli investimenti perché sul canale ci sono dei cantieri, in particolare quelli della nautica, in particolare ancora quelli di nautica di lusso, e quindi è necessario garantire la navigabilità. E per questo serve consolidare le sponde e diciamo dragare il fondale in maniera che ci sia un pescaggio adeguato. A questi lavori negli ultimi anni non solo ha partecipato la regione toscana, ma nel 2022-2023 ha partecipato direttamente con un'agenzia di servizi della NATO e il comando militare di Camberbi, perché in questo canale dei Navicelli parte dalla città di Pisa, ma poi attraversa la tenuta del Tombolo, che è parte integrante del Parco Naturale Regionale di San Rossore, quindi attraversa un'area naturale, ma sulla sponda ovest sostanzialmente è tutto area militare, area della base militare americana di Camberbi. Quindi voi sospettate che questi lavori in realtà vadano a favorire poi le attività militari? Noi siamo abbastanza certi, perché dopo aver investito 2 milioni di euro per il tratto vicino a Camberbi, il comando militare americano ha investito altri 4 milioni di euro per cementificare il cosiddetto tombolo dock, quindi fare un nuovo approdo all'interno della base americana, proprio fatto per la ricezione di chiatte che arrivano dal mare, considerando che sappiamo benissimo insomma che periodicamente, quasi mensilmente, dagli Stati Uniti arrivano navi al porto di Livorno che scaricano materiale bellico. C'è stata durante l'autunno scorso, ci sono stati vari blocchi, no, nel porto di Livorno per evitare proprio che venissero scaricati, e una delle strategie poteva essere quella, poi sono ripartiti, ma poteva essere quello di scaricare in mare e trasportare attraverso il fiume direttamente, attraverso il canale direttamente a Camberbi. Il presidente di Port Authority nel primavera scorsa, sotto l'interrogazione del consigliere comunale Cinciauletta, che chiedeva esplicitamente la questione del trasporto militare, ha detto con molta nonchalance: assolutamente sì, sono frequenti i passaggi di mezzi militari, di chiatte militari con materiale bellico non specificato, solo che il comune di Pisa attraverso la Port Authority non ha il controllo, nel senso che viene comunicato all'ultimo minuto quali saranno questi carichi, senza poi specificare bene cosa, e quindi la cosa che abbiamo chiesto noi in questi giorni al comune di Pisa, al sindaco di Pisa Michele Conti e al presidente di Port Authority Mirko Benedetti è: quali garanzie date agli stessi imprenditori che oggi state celebrando sulla nautica, quando sostanzialmente per uscire dalla Tarsana Pisana e arrivare al mare bisogna fare 5 chilometri affiancheggiando la base militare di Camberbi, che quando vuole, come vuole, quasi senza preavviso fa arrivare e fa partire materiale bellico. Questo è un dato, diciamo, sulla sicurezza fondamentale. Poi chiaramente nella strategia complessiva, se guardiamo gli investimenti complessivi, 1 miliardo di euro sulla Tarsana in Europa, che è cementificazione, ristanno rifacendo tutti i navicelli, rifanno, sappiamo che c'è un investimento, no, anche sulla base militare, quindi il nodo pisano diventerà sempre di più un luogo di attraversamento di armi e mezzi militari. Noi negli ultimi anni abbiamo denunciato l'arrivo su gomma attraverso l'autostrada e abbiamo visto che utilizzano anche la ferrovia. Tutte le vie sostanzialmente vengono utilizzate, le infrastrutture del trasporto, che sono quelle che purtroppo usiamo noi cittadini e cittadine tutti i giorni, vengono utilizzate per la guerra. Quindi cioè il nostro non è un sospetto, è l'analisi di un sistema che sta degenerando e che ci coinvolge ogni giorno di più nella guerra globale.